Quasi metà dei contratti di affitto delle ville più ricercate da Portofino a Taormina sono intestati a nullatenenti. E sempre a nullatenenti, prestanome o società di comodo, risulta intestato il 64% delle imbarcazioni di lusso che circolano nei nostri mari. I dati sono forniti dall'associazione contribuenti.it. In particolare, secondo la Guardia di Finanza, 35.000 di queste società hanno eluso le tasse per 3 miliardi di euro. Una vera beffa per i contribuenti onesti in un paese, l'Italia, terzo al mondo per ricchezza delle famiglie. Lo dice un rapporto del Credit Suisse Research Institute, l'autorevole centro di ricerca del gruppo bancario svizzero. Ci sono solo due economie prima di noi, Norvegia e Australia. Peccato che sono appena 72.000 gli italiani che dichiarano al fisco un reddito superiore a 200.000 euro lordi all'anno. Un vero record negativo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.